di questa crisi di governo, che come ogni crisi di governo si sa come inizia, non si sa mai come finisce, però questa è ancora più sorprendente del solito, perché è un mese che sta andando avanti, ci sono più ipotesi, si sono già creati più volte degli scenari che in passato sostanzialmente avrebbero significato una chiusura della crisi con passi avanti, e invece ciascuno di questi scenari si è puntualmente dissolto a un certo punto, spesso anche in prossimità del voto. Adesso è uscita una nuova ipotesi, appunto quella di Draghi, che sta diventando un'ipotesi appunto più che concreta nel momento in cui Mattarella l'ha chiamato al Colle. Se un personaggio come Draghi viene chiamato al Colle per cercare un governo, di solito il presidente Mattarella, nelle consultazioni precedenti, si era già fatto un'idea sulla praticabilità di una mossa del genere, la praticabilità politica chiaramente. Quindi verrebbe da pensare, come cosa più ovvia, vabbè, allora abbiamo un governo Draghi. Solo che già questa mattina sono successe cose abbastanza curiose, come ad esempio il Movimento 5 Stelle, sempre governista, anche se sempre comunque chiaramente a sostegno del governo Conte, che con Crimi ha affermato che non vota in nessun caso un governo Draghi. Matteo Salvini invece, leader della Lega, quindi teoricamente un super oppositore di Draghi, in quanto sostanzialmente ex banchiere centrale della BCE e quindi sostanzialmente il diavolo per chi ha delle politiche economiche e un'idea di politica estera come quella della Lega, che invece ha fatto delle aperture, chiaramente ha fatto delle aperture per andare al voto in estate, quindi sostanzialmente facendo un discorso: facciamo passare il primo giro di vaccini e facciamo arrivare l'estate, magari accorpiamo anche alle elezioni comunali che ci saranno in diversi comuni d'Italia, tra cui Bologna, e quindi sostanzialmente fare un grande election day dove passare a una nuova legislatura. È una soluzione che al momento è comparsa e sulla quale però è difficile fare pronostici, proprio perché finora più scenari, tra virgolette, conclusivi si sono già verificati e però non hanno concluso assolutamente niente. Stando alla Lega, abbiamo rilevato anche noi queste aperture di Salvini, però sappiamo che all'interno del centrodestra c'è una lotta per la leadership abbastanza serrata, soprattutto tra Salvini e Giorgia Meloni. Questo potrebbe avere delle conseguenze all'interno degli equilibri nel centrodestra? Sì, chiaramente questo dipende molto dal fatto, ad esempio, se Salvini e Meloni decidono entrambi di sostenere questo eventuale governo Draghi, oppure se fanno scelte diverse. Sicuramente però, se la Lega entrasse o comunque sostenesse anche a livello esterno questo governo Draghi, avrebbe comunque nuovamente rilevanza pubblica e potrebbe nuovamente tornare a intervenire in maniera più efficace sulla politica italiana, anche solo a livello di dibattito, molto più di quello che ha fatto durante l'anno scorso, dove per ovvi motivi l'intera sostanzialmente dibattito politico ha teso a congelarsi, soprattutto le opposizioni, e quindi una Lega che sostiene il governo può riprendere ad avere voce in capitolo e anche, cosa non indifferente comunque, far vedere un'eventuale scommessa di Salvini su un suo ruolo più responsabile, ovvero per il bene dell'Italia io sostengo un governo che è fatto è tenuto dal diavolo, perché non si può andare a votare adesso, e quindi appunto per traghettare fino a giugno io sono disposto anche a votare Mario Draghi, e questo appunto dando un segnale di responsabilità. A volte ha pagato in passato, altre volte decisamente no, e chiaramente questo, se la Meloni non sostenesse a sua volta il governo, se seguisse potrebbe essere un tipo di confronto, se invece rimanesse fuori potrebbe fare invece appunto una battaglia dialettica per contendersi la leadership. Poi in tutto ciò c'è il solito discorso del grande vecchio che da Bruxelles osserva, ovvero Silvio Berlusconi, che finora è politicamente irrilevante sostanzialmente, nel caso ci sia uno scenario in cui i due partiti di centrodestra principali sostengono il governo, oppure ancora di più se si va a elezioni, sostanzialmente al momento per avere una maggioranza Fratelli d'Italia e Lega non hanno bisogno di Berlusconi, però in questo periodo dove succedono un sacco di cose curiose c'è bisogno di fare delle scommesse che finora chi le ha fatte a livello politico mi sembra che non sia riuscito esattamente a incassare, vedi appunto Renzi prima e anche Conte poi. Siamo sempre ovviamente nel campo delle ipotesi, però potrebbe in teoria prodursi anche uno scenario in cui diversi partiti si spaccano, con fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, fuoriusciti dalla Lega, rimescolare completamente i giochi, le carte in tavola? Dal la Lega la vedo molto più complicata, dal Movimento 5 Stelle già sì, perché torniamo sempre al solito discorso che è molto brutto da dire, però il passato ci dà ragione, ovvero che per moltissimi dei parlamentari, soprattutto dopo la riforma di settembre, la riforma costituzionale del taglio dei parlamentari, moltissimi parlamentari sanno benissimo che se si torna a votare loro non saranno in Parlamento, e quello tendenzialmente è comunque un buon deterrente per il non voto, quantomeno per provare in tutte le maniere possibili a costruire un governo, cosa che poi, tra l'altro, visto che questa è sempre una retorica che non mi è mai piaciuta particolarmente, sarebbe comunque teoricamente il compito del Parlamento e del Presidente della Repubblica, andare a votare sì, ma dopo 5 anni, e cercare di evitare in tutti i modi di andare alle elezioni anticipate.